comincio. Prego, grazie, io ringrazio per questo invito che anche mi fa ringiovanire. Grazie che ti hanno invitato. Vi ringrazio appunto per questo invito, mi fa ringiovanire perché io a lungo, fino al 2000, ho insegnato qui accanto nell'aula 216, quindi torno volentieri a tanti anni di distanza, e poi mi ha fatto ringiovanire anche il ricordo degli anni 60. Sì, l'aspetto finanziario è importantissimo, e il collegamento tra potere finanziario e potere militare, il formarsi di questo possibile blocco storico, soprattutto negli Stati Uniti, tra finanza e rivoluzione marziale, come tu l'hai definita, è dato da alcuni elementi. Si spendono nel mondo annualmente 1.000 miliardi di dollari per spese militari. La metà, cioè 500 miliardi di dollari, sono spesi dai soli Stati Uniti. Gli Stati Uniti da soli spendono quello che spendono il resto del mondo. E questo naturalmente, come ricordavi tu, è anche un volano importante. L'economia americana è anche un'economia che funziona sulla base di 500 miliardi di dollari di spese militari. Naturalmente, molto mancata nel libro, c'è qualche dato a proposito dell'incremento di queste spese militari a partire dall'11 settembre. E inoltre un altro dato importante è che mi pare 1.200 miliardi di bond del tesoro americano sono detenuti da creditori all'estero, soprattutto dalla Cina e in parte minore nei paesi arabi. Quindi questi aspetti sono senz'altro decisivi, non sono trattati nel libro, però questa è una ipotesi, è una vostra esercitazione, è possibile che sarebbe interessante fare. E a proposito di quella che allora veniva definita guerra rivoluzionaria, e a proposito della Cina e poi anche dell'India, siamo stati indotti alla, con questa piccola casa editrice di Gorizia, zona militare legata al 4 novembre, come adesso in questi giorni è stato ricordato, dal fatto che questa casa editrice ha pubblicato 6 anni fa un libro dove, invece che di guerra rivoluzionaria, si parla di guerra asimmetrica, che è il tipo di guerra equivalente a quella rivoluzionaria, che non è dichiarata ed è combattuta con tutti i mezzi, da quelli della propaganda a quelli delle agitazioni sindacali, dal terrorismo all'alta finanza. Quel libro è stato scritto da 2 colonnelli cinesi e è stato presentato in Italia dal generale Mini, che comandava le forze operate in Kosovo e che è un esponente del contemporaneo pensiero militare italiano. Credo che voi alcuni di voi almeno lo leggete sulla Repubblica. E allora appunto questa casa editrice aveva pubblicato questo libro, io ho partecipato a un convegno storico detto appunto a Gorizia, si parlò di questo libro, dei rapporti tra la guerra asimmetrica di oggi e la guerra rivoluzionaria di mezzo secolo fa, ed è nata l'idea di ripubblicare questo libro. E la Cina è di nuovo in un certo senso protagonista per più ragioni, che l'idea della guerra rivoluzionaria è stata la risposta del pensiero militare occidentale soprattutto alla rivoluzione cinese e al modello di rivoluzione anticoloniale che poi, come tu hai ricordato, è stata esportata in Vietnam e poi sino all'Algeria. Quindi guerra rivoluzionaria, concetto rinvigorito dal successo della rivoluzione cinese. Poi appunto i cinesi, che hanno elaborato questa teoria della guerra asimmetrica, che è il modo col quale la guerra rivoluzionaria della metà dello scorso secolo si presenta all'inizio di questo. E infine perché, a proposito del satellite abbattuto per esercitazione, i politologi americani ritengono che più o meno attorno al 2020 la Cina sarà una potenza anche militarmente in grado di fronteggiare gli Stati Uniti, fronteggiarli soprattutto in questo tipo di guerra rivoluzionaria o asimmetrica. E quindi questo è un altro problema del quale la strategia americana tiene conto, tiene anche conto del fatto che su questa base e di possibili potenziali guerre stellari si sta elaborando questo sistema di sicurezza, lo scudo spaziale, per il quale, tra l'altro è una questione anche di questi giorni, la prima risposta a Mosca alle elezioni di Obama è stato dire: ma verrà riveduta la politica di accerchiamento dell'URSS, della Russia, scusate, che è stata messa della Russia o dell'ex o della risorgente URSS, che è stata messa in atto con una catena di basi militari in tutta l'Asia centrale e che adesso è arrivata con le nuove basi di questo sistema antimissili nella Repubblica Ceca e in Polonia. E Medvedev ha detto che già a Kaliningrad, che è la vecchia Königsberg dei prussiani appunto, la Russia ha già installato nuove batterie antimissili modernissime. Quindi il problema è molto attuale, e come risposte in vista di queste possibilità vi è una abbastanza stretta collaborazione russo-cinese, un gruppo coordinato, del quale stranamente fa addirittura parte l'Afghanistan di Karzai. Hanno fatto delle manovre congiunte nelle quali l'uomo di fiducia degli americani in Afghanistan, Karzai appunto, ha partecipato in rappresentanza, quindi in rappresentanza di quel governo afghano che, secondo le definizioni anche americane, è poco più che il sindaco di Kabul. Però è indicativo di un tipo di coalizione che si sta determinando in quello che è un mondo multipolare. E questo è un altro paragone che faccio tra la guerra rivoluzionaria di mezzo secolo fa e quella asimmetrica di oggi. Le teorie elaborate prima dagli ufficiali francesi, poi dallo Stato Maggiore americano, erano quelle che collegavano l'espansione del comunismo non solo alla capacità di condurre questo tipo di guerra non dichiarata su piani diversissimi, da quello del terrorismo a quello sindacale, per dire, da quello finanziario a quello degli attentati. Non solo era in grado il comunismo, secondo questa valutazione, di espandersi grazie a questo tipo di conflitto, ma anche perché regimi autoritari hanno un potere decisionale molto superiore, ritenevano, a quello di questi regimi democratici. E fu proprio in questa occasione che un autorevolissimo politologo occidentale, Maurice Duverger, in Francia, scrisse un opuscolo appunto all'inizio degli anni 60, è uscito pochi mesi prima che io pubblicassi questo libro sui colonnelli, proprio dal titolo La dittatura, che sottolineava il pericolo che queste esperienze di guerra rivoluzionaria nelle élite militari e la convinzione che la competizione col comunismo si vinceva solo con un potere concentrato con rapidità di decisione era la premessa di rischi autoritari anche in democrazie rappresentative consolidate come la Francia. Tutto ciò si poteva ritenere che venisse meno col crollo, con l'implosione dell'impero sovietico. Si era dimostrato meno efficiente, soprattutto sul piano economico, e quindi la tesi secondo la quale bisognava accentuare le caratteristiche autoritarie di rapidità di decisione anche in Occidente per competere con un comunismo che grazie alla rapidità di decisione si espandeva, è venuta meno. Anzi, si è arrivati a teorizzare l'opposto. Il famoso scritto di Francis Fukuyama, che era uno di questo gruppo di neocon, adesso ne ha prese le distanze, che fu tanto influente nella presidenza Bush, sostenne in un libro che poi corresse anche questo, scrisse addirittura di fine della storia, perché con la caduta del muro di Berlino la formula abbinata di democrazia rappresentativa e di economia di mercato si affermava nel mondo intero, quindi una certa storia, la storia dei conflitti era finita e adesso cominciava la storia dell'affermarsi a livello planetario di democrazia rappresentativa e di economia di mercato, aiutata con un minimo di espansione. Infatti il pensiero neocon, anche prima dell'11 settembre, era basato su questo concetto, l'ho scritto di Fukuyama e addirittura dell'89, precede addirittura sia pure di pochi mesi la prima formulazione di questo concetto sulla rivista Foreign Office, precede addirittura la caduta del muro di Berlino. Lo stesso Fukuyama poi ha accantonato questa tesi, sostiene che in realtà la storia continua, come tutti abbiamo ben visto, e che in realtà la diffusione della democrazia rappresentativa, lo state building, come adesso viene definito, la costruzione dello Stato moderno, è molto più problematica e molto più difficile di quanto non si pensasse all'inizio degli anni 90. Quindi il problema di vedere quali siano i possibili competitori si ripropone, possibili competitori degli Stati Uniti, si ripropone in un momento nel quale, dopo l'equilibrio bipolare che ha caratterizzato la guerra fredda, dopo la rottura di questo equilibrio con l'affermazione di una sola superpotenza, gli Stati Uniti, tra l'inizio degli anni 90 e si può dire l'attentato dell'11 settembre, è una situazione che sta venuto meno. Oggi è concorde la valutazione anche negli Stati Uniti che il mondo è avviato a divenire multipolare. La Russia ha superato la fase di acuta crisi del periodo che va da Gorbaciov a Yeltsin e in un certo senso si sta riproponendo con una potenza che, nel libro lo sottolineo, tutti gli esperti richiedono che sotto il profilo puramente militare è lontana dalla evoluzione tecnologica degli Stati Uniti, ma pur tuttavia, siccome appunto si può ipotizzare un conflitto che non è basato sulla tecnologia, e tra l'altro negli stessi Stati Uniti il concetto di guerra tecnologica, che basta vincere le guerre, è profondamente in crisi dopo l'esperienza irachena, comunque l'URSS è finita, ma la nuova Russia riemerge con delle caratteristiche di potenza in crescita, in grado di far sentire ancora un peso sul piano internazionale che fino all'avvento di Putin e del gruppo. D'altro oggi la Russia è governata dagli eredi del KGB, che si sono trasformati in una classe politica in scontro con gli oligarchi che avevano trasformato la proprietà pubblica in loro proprietà privata, ma insomma abbiamo una classe politica che ha queste caratteristiche molto collegate appunto all'intelligence, alle idee della sicurezza, alle idee della guerra asimmetrica. Della Cina abbiamo detto, c'ha una grande potenza a livello economico, negli stessi Stati Uniti si prevede che attorno al 2020 sarà una grande potenza anche sul piano militare, tenuto conto che il tipo di conflitto non è quello della Seconda Guerra Mondiale, le grandi battaglie di mezzi corazzati, non sarà questo, sarà qualcos'altro, anche se avere un apparato militare consistente è importante come riserva di fondo per nuovi conflitti asimmetrici. Dunque, Russia e Cina. Poi abbiamo l'India. Una delle mie tesi è che l'India non è affatto una democrazia. L'India è un sistema che ha adottato formalmente il sistema parlamentare inglese. Il lungo dominio ha fatto sì che si costruissero due partiti del congresso, diciamo sul centro-sinistra, e una coalizione di partiti induisti sul centro-destra, tra l'altro partiti induisti di una certa spregiudicatezza, perché vi fa parte un piccolo partito che a suo tempo aveva organizzato l'assassinio di Gandhi. Quindi apparentemente abbiamo una democrazia, come si dice oggi, c'è il bipolarismo, abbiamo un partito di modello di centro-sinistra è un partito di modello di centro-destra, ma in realtà l'India, cito un po' di studiosi e anche qualche romanziere, è governata da grandi famiglie. Si potrebbe dire, adattando il concetto di feudalesimo a una società avanzatissima, perché l'India in questo momento ha i migliori cervelli del mondo sotto il profilo tecnologico, la loro ricca tradizione culturale nella matematica, quelli che noi chiamiamo numeri arabi sono in realtà numeri concepiti nell'India di 2000 anni fa e più. Dicevo, sotto l'aspetto di una società che tecnologicamente è molto avanzata, che socialmente è arretratissima, ci sono aree nelle campagne indiane di assoluta ed esasperata povertà, come del resto in parte anche nelle campagne cinesi, Questa società è governata non dagli eredi del KGB come la Russia, non dagli eredi della tradizione confuciana mandarina del Partito Comunista Cinese, è governata da grandi famiglie feudali, feudali di un paese tecnologicamente molto avanzato. Questo per dire che in sostanza in questo mondo multipolare, non più dominato né da due grandi potenze né dai soli Stati Uniti, e dove nel prossimo decennio, quindicennio, avremo gli Stati Uniti, la Russia in ripresa, la Cina, l'India, il Giappone, che attraversa una fase di difficoltà per certi aspetti, ma che è comunque un grande protagonista, mentre c'è molta attenzione in quello che accade in Brasile, che è già vista come una possibile potenza significativa sul piano mondiale nel prossimo decennio. Quindi in sostanza abbiamo un mondo multipolare, trascuro in questa storia l'Europa, che nel libro c'è qualche accenno, soprattutto utilizzo quello che dice il generale Mini, l'Europa spende molto per la difesa, non ovviamente quanto gli Stati Uniti, senza avere un apparato in grado di farne una protagonista. L'Europa, se no, questa è una idea che espongo nel libro, se non si unifica non sarà un soggetto politico. Avremo i grandi soggetti politici, gli Stati Uniti, la Russia, la Cina, l'India, forse il Brasile, ma non questa Europa delle patrie, per usare l'espressione di De Gaulle. Questa Europa delle patrie, come? Unita a livello politico? Se fosse unita a livello politico, l'Europa sarebbe uno di questi soggetti, ma non lo è affatto, non neanche, prego. Ma quello che serve all'Europa sì. No, ragazzi, un momento. No, l'Europa non ha, è uno dei problemi, è quello di una forza, di un possibile esercito europeo che per ora non c'è. Appunto, una delle caratteristiche di questi soggetti che ho indicato è che hanno, tra l'altro, l'esercito indiano combatte una guerriglia contro i Tamil da decenni. L'Europa ha ancora una piccola forza integrata di poche migliaia di uomini nell'ambito della NATO, e poi ancora i singoli eserciti nazionali. E una delle caratteristiche del dibattito che c'è stato in Europa, la bocciatura dei referendum in Francia, in Olanda, recentemente in Irlanda, è appunto il rifiuto degli stati nazionali a cedere al soggetto Europa una parte consistente della loro sovranità nazionale. E tra gli aspetti di sovranità che non vogliono cedere è la sovranità sulle forze armate. Quindi in queste condizioni, e proprio per tutte queste ragioni, se l'Europa rimane divisa non sarà mai un soggetto nel prossimo quindicennio. E gli altri soggetti, ripeto, gli Stati Uniti sono una democrazia rappresentativa con una serie di problemi. Adesso se pensiamo in questi giorni che sia un paese meraviglioso perché per la prima volta ha eletto un afroamericano, ma la democrazia, secondo me, la democrazia rappresentativa negli Stati Uniti presenta dei notevoli problemi, e tra l'altro, appunto, tu hai accennato, si può formare un blocco storico marzial finanziario che rapporti con la caratteristica di rappresentanza e di controllo democratico non ha molti rapporti. Quindi comunque quello, io personalmente sono molto contento di eventi di questi giorni, ma visti su uno sfondo storico, diciamo, abbiamo comunque una democrazia rappresentativa che però a livello mondiale si confronta con protagonisti dalla Cina alla Russia, all'India e al, presumibilmente anche al Giappone e al Brasile, che non hanno questa caratteristica. L'ultimo punto che voglio sottolineare è quello che tu accennavi nei ritorni che questa teoria ha avuto. Assistiamo a due fenomeni abbastanza interessanti, che riguardano l'influenza che questa rivoluzione marziale, la guerra rivoluzionaria o poi asimmetrica, ha avuto in due contesti particolarmente importanti, che sono l'Islam, che dall'11 settembre sembra uno sfidante, e l'America Latina, con un fenomeno del quale il Brasile è il principale protagonista. Il fenomeno è come sono evolute nei rapporti con l'Occidente queste elite militari formatesi nel contesto della guerra fredda, diciamo. Queste sono due evoluzioni contrapposte. Cominciamo dalla cosa è avvenuto in Islam. E i paesi islamici, soprattutto arabi, hanno tentato di recuperare il distacco dell'Occidente con una rivoluzione che comincia proprio con dei militari, la rivoluzione dei giovani turchi, gli ufficiali delle guarnigioni della Turchia in Europa, in Macedonia soprattutto, che nel 1909 fanno, che erano di orientamento illuminista massonico, c'era anche Kemal Atatürk che poi prenderà il potere in Turchia. Allora, il primo tentativo dell'Islam di ricostruire un soggetto politico in grado di recuperare il ritardo rispetto all'Occidente nasce proprio in una elite militare ancora prima che venga teorizzata la guerra rivoluzionaria. Di fatto ne sono però quasi i predecessori, e questa tendenza continua a svilupparsi tra la prima e la seconda guerra mondiale, con circoli di ufficiali che si avvicinano alle varie impostazioni della cultura politica occidentale. I giovani turchi erano illuministi, vagamente liberal democratici e massoni. Poi ci sono gli ufficiali che si avvicinano al cosiddetto socialismo arabo, il Baath, l'ultimo loro erede sarà Saddam Hussein, e ci sono addirittura ufficiali, soprattutto in Egitto, Nasser, Saddam, che si avvicinano alla concezione nazionalsocialista, tanto che tentano di prendere contatto con Rommel quando sembrava che potesse arrivare ad Alessandria. Allora abbiamo già in questa fase, addirittura prima della guerra 1914-18 e fino alla seconda guerra mondiale, elite militari che cercano di farsi protagoniste del risveglio islamico ispirandosi ai più diversi modelli occidentali: la liberal democrazia, il socialismo democratico, il nazionalsocialismo e il fascismo. Tutti questi militari vengono sconfitti. L'ultimo che combatte questa battaglia è Nasser, che perde la guerra del Kippur contro Israele. E a questo punto si ha un capovolgimento della situazione. L'Occidente, soprattutto gli Stati Uniti, ma in parte anche la Francia e l'Inghilterra, riescono a influenzare queste elite militari perché, invece di essere lo strumento del risveglio islamico, siano gli strumenti dell'influenza occidentale. Ho trovato qui, quasi per coincidenza, lo studio molto le coincidenze, questo volantino che vi invita a studiare: militari e potere in Asia. Si cita Birmania, Thailandia, Indonesia e Pakistan. Ora, sono situazioni diverse, non mi soffermo sulla Birmania e sulla Thailandia che hanno caratteristiche particolari. L'Indonesia è uno dei primi esempi di utilizzare i militari contro la rivoluzione anticoloniale. C'è un regime attorno a Sukarno, un regime nazional popolare, usiamo questa espressione gramsciana, che viene rovesciato da Suharto e dai militari. Il Pakistan è un altro esempio di questo tipo. Contingentemente Musharraf è stato, se n'è andato, ma tra l'altro il Pakistan è in una situazione estremamente incerta e difficile, e ha armi nucleari. Sono però esempi nei quali c'è questo rovesciamento di tendenza. I militari, che erano una elite anti-occidentale nel senso che favoriva un risveglio islamico, diventano lo strumento di garanzia dell'egemonia occidentale. Indonesia con Suharto, Pakistan con Musharraf, è lo stesso che accadrà in Algeria, quando di fronte alle affermazioni elettorali di un partito islamico i militari prendono il potere, e avviene anche in Tunisia con Ben Ali, fra l'altro favorito proprio dai servizi segreti italiani, l'ho raccontato il loro responsabile, l'ammiraglio Martini, e durante il governo Craxi. Quindi qui abbiamo questo rovesciamento, che però, dedico un capitolo del libro a questa questione abbastanza interessante, però è una situazione che può essere assolutamente transitoria. E infatti la stessa Indonesia oggi non è più un regime militare, è formalmente una democrazia, in realtà non lo è per tante ragioni sulle quali non mi soffermo, e nel Pakistan Musharraf ha dovuto lasciare il potere, a conferma che mentre invece lo mantengono i militari algerini, i militari tunisini. E secondo me, questa è una delle tesi del libro, questa situazione è incerta, cioè questo capovolgimento grazie al quale gli militari da ostili all'Occidente sono diventati strumento dell'Occidente è una fase transitoria, perché nonostante questo la mobilitazione islamica continua sotto altre varie forme. Del resto anche tutti i politologi americani anche oggi sono preoccupatissimi della situazione in Pakistan, che è estremamente stabile, e ripeto, il Pakistan è l'unico paese islamico che già dispone di armi atomiche. Invece nell'America Latina è accaduto il processo opposto. Le elite militari che durante la guerra fredda erano state utilizzate dall'Occidente per rafforzare la propria egemonia, i colpi di Stato in quasi tutti i paesi latinoamericani, compreso il Brasile e compresa l'Argentina e poi il Cile, lì la situazione si è capovolta. Le elite militari adesso sono uno strumento di un risveglio dell'America Latina che vuole affrancarsi soprattutto dalla egemonia politica degli Stati Uniti. L'esempio più clamoroso è Chávez, un ufficiale paracadutista istruito nelle accademie militari a Panama per conto degli Stati Uniti, che prima era stato presentato come un golpista, e devo dire che è un po' l'immagine che ha ancora molta pubblicistica anche di sinistra in Italia, vede Chavez come una sorta di avventuriero golpista. In realtà secondo me il protagonista di un processo molto diverso e molto più ampio, sono naturalmente una serie di valutazioni critiche che possono essere fatte su questi regimi, che secondo me, e cito anche molti autori, hanno delle caratteristiche caudillistiche, cioè il caudillo, la cultura politica latinoamericana non è una cultura liberal democratica, è una cultura sostanzialmente populista, con vari tratti sui quali sul libro mi soffermo su questi tratti. Questi tratti di cultura populista che spesso si traducono nell'individuare in un leader, spesso militare, l'interprete dei bisogni popolari. L'esempio classico Peron, il termine peronismo è diventato una categoria che usa tutta la politologia occidentale, spesso viene usato secondo me del tutto impropriamente anche per l'Italia. Peron era il tipico militare, tra l'altro con un modello che aveva, era vicino a quello dei regimi di resto degli anni 30, fu anche addetto militare in Italia, circolavano sue foto col cappello d'alpino quando, come addetto militare argentino in Italia, assisteva alle manovre dell'esercito italiano. Cioè, Peron è il tipico esempio di una sorta di blocco storico opposto a quello finanziario militare tra ufficiali populisti e filoni radicali di movimento sindacali, i descamisados di vita però. Ecco, questa tendenza era stata sconfitta, e come ho detto i militari in Brasile, in Argentina, in Cile, in Bolivia, ovunque si può dire, erano stati i protagonisti della sconfitta delle guerriglie anti-americane degli anni 50 e 60, si è avuto un capovolgimento grazie al quale l'esercito o elite militari o arrivano direttamente al potere, come nel caso di Chavez, oppure appoggiano soluzioni come quella di Morales o anche in Ecuador e anche nella stessa Argentina. Quantomeno le elite militari stanno favorendo una sorta di risveglio il cui asse portante è il tentativo di acquisire autonomia rispetto a un'egemonia degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno sempre considerato l'America Latina una sorta di giardino di casa dai tempi della dottrina di Monroe, cioè gli europei o comunque interessi diversi da quelli nordamericani non devono avere un peso determinato negli Stati Uniti, sull'America Latina. L'ultimo tentativo in questo senso era stato quello di Napoleone III di mettere un Asburgo sul trono del Messico, che fu sconfitto proprio da una guerriglia, dalla guerriglia di Benito Juarez, dal quale prese nome anche il nostro Benito, il cui padre era un fabbro socialista. Allora, dicevo, abbiamo, concludo su questo, il libro suggerisce di prestare attenzione a questo quadro generale, una guerra asimmetrica che su uno scenario mondiale che non è più né bipolare né con una sola superpotenza, ma tende ad essere multipolare, è una forma di guerra particolare. Non ci saranno più le grandi battaglie aeree, le grandi battaglie di mezzi corazzati che hanno caratterizzato soprattutto la seconda guerra mondiale, ma probabilmente una guerra asimmetrica che spazierà, senza mai essere dichiarata, in vari settori, dallo spazio agli attentati, dalla finanza ai movimenti sindacali. E in questo quadro probabilmente le elite militari continueranno ad avere un certo peso, e una particolare attenzione credo debba essere dedicata a quello che accadrà in due aree importantissime, America Latina e mondo islamico, nelle aree nelle quali le elite militari hanno avuto questo ruolo diverso, a cavallo tra l'essere i protagonisti di un risveglio e di un'autonomia politica o essere strumenti dell'egemonia occidentale. Sono situazioni appunto che probabilmente aperte anche in America Latina. Non è detto che gli Stati Uniti si rassegnino facilmente al fatto che il giardino di casa sia dominato da elite populistico militari che sono a favore di una maggiore autonomia. Effettivamente nel libro si cita proprio persino l'amministrazione Bush ha fatto un viaggio in Brasile, ha detto di essere perfettamente d'accordo con Lula, che non è un militare, sappiamo tutti che la sua è un'origine sindacale, ma certamente Lula è al potere anche perché i militari brasiliani non sono più quelli del colpo di Stato del 1964, ma in una certa misura fanno parte di questo blocco storico militar nazional popolare. Dicevo, quindi gli Stati Uniti non si rassegneranno facilmente al risveglio dell'America Latina, spesso interpretato da elite militari, o che comunque si avvale della benevola comprensione delle elite militari. Quindi anche qui avremo una situazione probabilmente non semplicissima. E nello stesso tempo, come ho detto prima, non è in equilibrio neanche la situazione nel mondo islamico, nella quale l'utilizzo delle elite militari, tuttora in atto in Tunisia, a due passi da noi, o in Algeria, già ha dimostrato un'insufficienza gestionale sia in Indonesia che in Pakistan. Il libro offre una serie di spunti a questo. L'idea che effettivamente si possa andare al di là di queste osservazioni e immaginare non gli orrori, non un film degli orrori, ma un blocco storico finanziario militare che sia la risposta degli Stati Uniti a questa sfida multipolare, e quindi se questa conversazione di oggi potrà essere utile alle vostre ricerche, vi faccio molti auguri e magari arrivederci.